228. Donzelline ripiene di acciughe salate. Farina grammi 220, burro grammi 30, latte quanto basta, sale un pizzico, acciughe salate numero 4. Intridete la farina col burro, il latte e il sale, formandone un pane di giusta consistenza, lavorandolo moltissimo se volete che la pasta rigonfi in padella. Lasciatelo un poco in riposo, tagliatelo a metà ed allargate alquanto le due parti. Nettate le acciughe, dividetele a metà per il lungo, levate loro la spina e tagliatele a pezzetti quadri e questi collocateli distesi sopra una delle dette porzioni di pasta. Copritela con quell'altra per appiccicarle insieme e così unite, tiratele col matterello a sfoglia sottile che taglierete a mandorle per friggerle nell'olio. Questa dose basterà per 6 persone e potrà servire per principio in una colazione o per contorno a un fritto di pesce.